diciamo il motivo perché esiste una Wikimedia. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che una Wikipedia Italia non esiste, nel senso che tutti i progetti, compresa l'enciclopedia Wikipedia, che è il progetto più longevo e più popolare, sono divisi su base linguistica e non nazionale. Sull'edizione italiana non lavorano solo italiani, lavorano principalmente italiani, ma lavorano anche svizzeri di lingua italiana o anche persone che per interesse, per studio, per origini familiari parlano la lingua italiana in giro per il mondo, quindi non esiste un'entità nazionale. Esiste invece a livello nazionale una serie di gruppi di associazioni che promuovono Wikipedia, ma anche non solo Wikipedia, tutti i progetti gestiti da Wikimedia Foundation nelle varie realtà nazionali, e Wikimedia Italia è una di queste. Partiamo dal progetto più utilizzato, quello che pesa di più, che ha, potremmo dire, la fetta di torta più grande all'interno del vasto mondo wiki, potremmo dire così. L'enciclopedia, è corretto definirla così? Sostanzialmente che cos'è? Ma sì, è correttissimo. Allora, Wikipedia è un'enciclopedia, nasce per essere un'enciclopedia, un'opera di consultazione, con la differenza dello sfruttare la flessibilità del mezzo elettronico rispetto al mezzo cartaceo. Questa flessibilità significa rapidità di aggiornamento e soprattutto significa apertura al contributo del lettore, che è invitato a diventare autore egli stesso. L'edizione in lingua italiana ormai è stabilmente tra le prime 10 nel mondo, conta poco meno di 400.000 voci, ci arriveremo penso nell'arco di pochi giorni ormai, perché il tasso di crescita dei contenuti anch'esso continua ad essere sostenuto grazie proprio alla comunità di lettori e autori che l'anima. Il principio è abbastanza conosciuto, nel senso che qualsiasi testo trovate scritto è pronto per essere liberamente modificato da chiunque individui errori, lacune. Ovviamente noi invitiamo tutti a partecipare con spirito costruttivo alla creazione dell'opera in sé, che è un'opera corale e collettiva. Tutte le modifiche fatte da chiunque vengono vagliate dalla comunità degli utenti nel suo complesso, generalmente poi raggruppati attorno a temi che seguono per loro passione, per loro esperienza, per loro indole, per loro interesse, e attraverso proprio questo controllo incrociato che gli utenti esercitano gli uni sugli altri, il risultato statisticamente tende a convergere a qualcosa di, speriamo, valido e utile.